si può fare. Fatevi aiutare, come si dice. Aiutare, esatto. Senta, chi fa uso frequente di calzature in gomme, quindi scarpe da ginnastica, può trovarsi a fare i conti con il cosiddetto piede d'atleta, che non è il colpo di classe, no? Che distingue un grande campione da tutti gli altri, però una infezione fastidiosa che colpisce in modo particolare, si accanisce con i piedi degli sportivi. Appaiono delle zone arrossate, punteggiate, ci sono queste pustole molto piccoline. Sì, sì, e soprattutto si inizia a manifestare fra il terzo e il quarto dito del piede, quindi fra il tridice, com'è che era il... Alluce, e questa è la nostra veramente il cavallo di battaglia di Laura Vanossi e mia, alluce, illice, trillice, pondulo e mellino. Allora, tra l'illice e il pondulo, tra il terzo e il quarto dito, tende a manifestarsi questo piede d'atleta perché i funghi amano, adorano e sguazzano l'ambiente umido, certo. Il sudore, per cui ecco che l'atleta, non perché il fungo ami gli atleti, ma ama il sudore tipico degli atleti. Gli atleti mettono scarpe di gomma, scarpe chiuse per parecchie ore ed ecco che il fungo cresce vigoroso. Cosa bisogna fare? Un'azione preventiva, magari lavando i piedi e facendo docce con detergenti antimicotici, anche over the counter, cioè OTC, di quelli non da prescrizione medica che si trovano in commercio. Mercio. Oppure aggiungere qualche goccia di tea tree oil, che aiuta molto nel proprio detergente abituale. È molto utile l'applicazione di polveri assorbenti e di polveri antimicotiche nei piedi e nelle scarpe quando si suda. Nel momento in cui invece si manifesta il piede d'atleta è opportuno utilizzare proprio le creme o gli spray antimicotici, cioè specifici contro i funghi, e vanno applicati mattino e sera per almeno 4 settimane. Dottoressa, chi frequenta ad esempio piscine dovrebbe portare gli zoccoletti ai bordi della piscina, delle scarpette di gomma da usare solo per la piscina, ma si sa che poi si esce dall'acqua, si cammina un po' a piedi, insomma, dalla teoria alla pratica ci passa, e ci sono tante persone che allora hanno paura di prendersi funghi, verruche, insomma, per molte persone camminare a piedi scalzi, specie in delle zone un po' umidicce come i bordi della piscina, può creare qualche problema, e così fanno uso magari di disinfettanti o di prodotti igienizzanti. È utile, non è utile? E come possiamo accorgerci che qualcuno è andato a visitare il nostro piede e si è insediato lì? Può essere certamente utile, più che altro per evitare che determinate infezioni si possano spargere. Certo che io, quando penso alle piscine, più che al problema delle verruche dei piedi e dei funghi dei piedi, penso che uno dei problemi più seri sia quello delle congiuntiviti degli occhi, ecco. Per cui è molto importante frequentare piscine sicure e dove i filtri vengano cambiati frequentemente e non sicure perché vengono utilizzate eccessive quantità di cloro e di disinfettanti, perché anche quelli a loro volta possono essere dannosi, dare problemi, per noi, certo. Ecco. Quindi, dottoressa Serri, usiamo le calzature in gomma se frequentiamo le piscine, cerchiamo di scegliere stabilimenti e piscine che abbiano tutti i requisiti e quindi che siano a prova di igiene, a prova di schineco, bisognerebbe dire. A prova di schineco, perché ci sono sanitizzanti e sanitizzanti. È molto importante che prima di immergersi in una piscina tutti comunque si facciano una doccia, ma questo ben al di là del discorso delle verruche. Non basta lavare i piedi, a proposito di piedi. E allora, dottoressa Serri, noi ci lasciamo con il piede di Harry De Luca, che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere e di avere proprio con noi al Salone del Libro di Torino, che è uno scrittore magnifico, un uomo meraviglioso. Fantastico. Insomma, io l'ho inserito un po' nel mio curriculum, mi batte un po' il cuore. E intanto io la saluto, la ringrazio per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo. A presto. Grazie, buona giornata. E buona giornata a voi, vi lascio con Henry De Luca. Pensate, guardate se è poco. Grazie, a domani. Perché reggono l'intero peso, perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi,